Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Questa è la storia di italiani in Argentina. È la storia di persone con passaporto italiano residenti a Buenos Aires. Uomini e donne che avevano idee politiche diverse da quelle dei militari. Per questo sparite per sempre. Questa è una storia di desaparecidos. ...26 marzo 1976... Una giunta militare composta dal comandante in capo dell'esercito, generale Jorge Videla, dal comandante della marina militare, ammiraglio Emilio Eduardo Massera, e dal generale di brigata aerea, Orlando Ramon Agosti, prende il potere in Argentina. Destituisce l'allora presidente della Repubblica Maria Estela Martinez, detta Isabelita, vedova del generale Juan Domingo Perón. Il 24 marzo 1976 la giunta militare argentina guidata da Jorge Videla emette il suo primo comunicato ufficiale. Comunicato numero uno della giunta del comandante generale. Se comunica la fundación que a partir de una fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta de comandantes generales de las fuerzas armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del ejército. Il paese viene diviso in 5 zone militari, ognuna al comando di un corpo dell'esercito. Argentina. Buenos Aires. La zona 1, area Buenos Aires, capital federal, si trova sotto il comando del generale Carlos Guillermo Suárez Mazón. La zona 2 riguarda l'area geografica della provincia di Entre Ríos, a nord di Buenos Aires. La zona 3, regione del Tucumán e città di Córdoba, sono controllate dal generale Menéndez. L'area Tigre-Campo de Mayo fa parte della zona 4 ed è guidata dal generale Santiago Omar Riveros. Zona 5, provincia meridionale di Buenos Aires, Patagonia e Tierra del Fuego. I generali golpisti argentini organizzano almeno 350 luoghi di detenzione, tortura, veri e propri campi di sterminio. Vengono deportati in gran parte giovani tra i 20 e i 25 anni, sequestrati nelle loro case nel cuore della notte, sequestrati lungo le strade e le piazze di Buenos Aires, bendati, incappucciati, trasportati su vecchie Ford Falcon prive di targa, poi condotti in centri di detenzione. Il regista italo-argentino Marco Bechis ricorda quei luoghi di violenza e orrore nei film Garage Olimpo e Hios, figli. El ejército argentino. ¿Qué quiere? ¿Nombre? María Fabián. ¿Nombre de guerra? Garage Olimpo raccontava la storia di un campo di concentramento e quindi aveva una materia da raccontare molto concreta, insomma, le celle, le zone dove si torturava, il funzionamento quotidiano del campo e la città sopra, ignara, che apparentemente ignara, che continuava una vita normale, una città che ha visto campionati del mondo del 78, opera lirica, balletti, continuava, diciamo, quello che si potrebbe dire una vita civile, fra virgolette, mentre sotto c'erano i campi di concentramento. Invece in Hijos, figli, tutta la violenza che si voleva raccontare stava dentro la testa dei personaggi, una violenza psicologica, e quindi era tutt'altro modo con cui bisognava affrontare cinematograficamente il film, e ho deciso di farlo senza spiegare, raccontare la psicologia di ogni personaggio così come si fa normalmente nei film psicologici, che spesso sembrano più telefilm che film, ma lasciando dei vuoti, degli spazi, in modo che lo spettatore potesse entrare e tentare di capire meccaniche di questa ultima tragedia, che è quella dei figli rubati sul nascere alle madri scomparse e che poi sono cresciuti senza sapere chi fossero e che oggi hanno 22-23 anni. Ecco. Questa tragedia ultima della dittatura militare mi sembrava che dovesse essere raccontata in un modo che il cinema normalmente non usa, cioè in un modo diverso a come si raccontano le storie psicologiche al cinema. I giovani argentini vengono infine torturati con la picana elettrica in ogni parte del corpo e poi fatti sparire con i cosiddetti voli della morte. Lanciati vivi nel Rio della Plata o nell'Oceano Atlantico da vecchi aerei Skyvan, Hercules o Electra, dopo essere stati denudati e intontiti con iniezioni di pentotal. Decine di madri si trovano negli anni in Plaza de Mayo a Buenos Aires. Portano grandi cartelli dove sono incollate le foto dei loro figli scomparsi, ma per il capo dell'esercito, il generale Videla, non esistono desaparecidos in Argentina. Comunque quelle persone, vive o morte, non hanno alcuna identità. Intanto, come tale, è un incognito il desaparecido. Se non desapareciera, tendrà un trattamento logico. Y si la desaparición se convirtiera en carpeta de su fallecimiento, sino tratamiento César. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerto ni vivo, está desaparecido. 30.000 persone scomparse, come un grande paese, un quartiere di una grande città, come ricorda il regista Marco Bechis. Non è vero che nessuno sapeva nulla, la stragrande maggioranza della popolazione sapeva che qualcosa stava succedendo, forse non conoscevano i dettagli che sono venuti fuori dopo, ma sapevano perfettamente che c'era una specie di legge che faceva sì che chi era un oppositore al regime veniva sequestrato, torturato e ucciso, anche perché spesso questi corpi apparivano nei terreni abbandonati della città e quindi non tutti scomparivano nel nulla. E i desaparecidos, che sono a numero oggi 30.000, erano, se vogliamo, la parte giovane, intelligente, arrabbiata della società. Io ricordo che appena tornato all'Argentina, era il 1977, io tornai in luglio, a settembre del 77 andai a Bologna, c'era un raduno del movimento a Bologna, storico, in cui si sono riuniti i movimenti extraparlamentari e moltissimi altri movimenti creativi che all'epoca operavano sotto il territorio nazionale. C'erano napoletani, c'erano siciliani, c'erano milanesi. Ecco, io ricordo che seduto sulle scalinate del Piazza Maggiore guardavo questi giovani che erano, guarda caso, 30.000. E io pensavo che in Argentina tutti quei giovani che erano lì, che alcuni di loro oggi sono segretari di partito, piuttosto che dirigono dei giornali, piuttosto che fanno attività artistiche, tutti quei giovani sarebbero scomparsi in un anno, in qualche mese. Quindi la cosa ghiacciante era proprio quella, pensare che la parte più attiva della società è stata quella che è stata direttamente colpita. Poi ci sono state anche madri di Plaza de Mayo che sono state prese, sono state delle suore, ci sono state anche persone che sono cadute nella rete anche addirittura per caso, ma questo succede in ogni grande repressione. Non è che erano ragazzi che non c'entravano nulla, perché questo non è vero, erano persone che avevano delle idee di cambiamento della società, di idee di progresso, delle idee di vita completamente diverse da quelle dell'establishment di quegli anni, come lo era in Italia, come lo era in tutta Europa, come lo è stato anche in parte degli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam, ma che le maniere con cui sono stati repressi sono state completamente diverse, perché li hanno annichiliti fisicamente. Giallo e Nero sui desaparecidos argentini torna tra poco, dopo la pausa. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Il luogo più importante ed inquietante dove si svolgono le sedute di tortura è l'ESMA, a Buenos Aires. Lì vengono risucchiate migliaia di persone che non torneranno mai più agli affetti delle loro famiglie. L'ESMA è la scuola di meccanica della Marina. Si trova a Buenos Aires, sulle elegante Avenida Libertador, una delle strade più belle della capitale, lungo il Rio della Plata. Comandante della Marina Militare è Emilio Eduardo Massera. Antonio Vagnec, contrammiraglio, è il suo numero due. Negli anni della dittatura militare, all'ESMA opera il cosiddetto Gruppo de Tarea 332. Il capo del servizio logistico e operativo è Raul Vildosa. Il suo braccio destro è Jorge Eduardo Acosta. Del gruppo fa parte Héctor Antonio Febres, prefetto navale. All'ESMA lavora Alfredo Ignacio Astiz, responsabile delle sezioni di tortura. In una delle stanze sotterranee dell'ESMA un giorno arrivano Angela Maria Aireta, Giovanni e Susanna Pegoraro. Angela Maria Aireta viene sequestrata il 5 agosto 1976 da un gruppo operativo che la conduce all'ESMA. Ma il comando intende invece uccidere il figlio della donna, il giovane Dante Gullo, leader della gioventù peronista. Giovanni Pegoraro, imprenditore edile di Mar della Plata, e sua figlia Susanna vengono fatti sparire il 18 giugno 1977 a Buenos Aires. Tutti cittadini italiani. La verità sulla loro morte e di quella di altre 30.000 persone giungerà con anni di ritardo. La forza e la pazienza delle madri di Plaza de Mayo, il lavoro infaticabile di associazioni internazionali e la caparbia di alcuni avvocati italiani ed argentini. ...9 giugno 1999, la svolta. Viene riaperta l'inchiesta per gli omicidi di Angela Aireta Gullo, Giovanni e Susanna Pegoraro. 6 gli indagati: Emilio Eduardo Massera, Alfredo Astiz, Antonio Vagnec, Raul Vildosa, Jorge Eduardo Acosta, Héctor Antonio Febres. Nel giugno 2001, su richiesta del PM Francesco Caporale, il capitano Alfredo Astiz viene arrestato dalla polizia argentina. Questa indagine subisce un'improvvisa accelerazione al termine del processo davanti alla Corte d'Assise di Roma per la morte di altri 8 italo-argentini. Vengono condannati all'ergastolo gli ex generali Guillermo Suarez Mazón e Santiago Omar Riveros e a 24 anni di carcere i sottufficiali Juan Carlo Gherardi, Omar Héctor Maldonado, José Luis Porchetto, Alejandro Puerta e Julio Roberto Rossin. La sentenza è confermata in appello e diventa definitiva nel 2004 dopo pronuncia della Cassazione. Da alcuni mesi è in corso il processo per gli omicidi di Angela Aireta, Giovanni e Susanna Pegoraro. L'avvocato Marcello Gentili, legale di parte civile, spiega uno dei punti chiave stabiliti dai giudici italiani. È stato dichiarato la natura di reati oggettivamente e soggettivamente politici dei reati contestati. Ha ribadito, come era avvenuto nell'altro processo, la Corte, che i reati di violazione degli elementari principi di vita, di esistenza, di libertà dei cittadini italiani sono reati oggettivamente politici. Questo per l'adesione dell'Italia tramite l'articolo 10 della Costituzione alle convenzioni internazionali di garanzia della libertà degli individui. L'avvocato Gentili ricorda il ruolo dell'ESMA nella sparizione di oppositori del regime dei generali golpisti. Se c'è un carattere di questi reati, di questi processi, se c'è un diritto fondamentale di civiltà da difendere, è anche quello della non clandestinità. Le torture, i sequestri, le sparizioni le eliminazioni fisiche sono avvenute tutte in clandestinità. Non sto a ripetere la gravità oggettiva di impunità e di intimidazione di queste modalità scelte dall'Argentina per non avere una ribellione dell'opinione pubblica come era avvenuto per i fatti di 3 anni prima del Cile. Se questo è un carattere fondamentale di sofferenza, per cui la scomparsa è infinitamente più grave per i familiari della morte, ebbene l'ESMA, che è un centro clandestino nel centro di Buenos Aires, per un carattere, l'ESMA che organizzava il parto di proprie detenute incinte, di detenuti che arrivavano da altri campi dall'altra, per far partorire in stato di detenzione clandestina e sequestrare con falsificazione dell'anagrafe i neonati, e quindi cancellare in un oblio disumano tutto, perfino la speranza dei nonni, perfino la speranza dei parenti di avere il corpo o il nipote, il corpo della figlia o il nipote, questo è l'ESMA. E infatti fra le parti civili c'è quella, oltre alla mamma di Dante Guso, che ha fatto di tutto per intercedere per il figlio carcerato illegittimamente e verosimilmente o probabilmente per questo è stata eliminata, c'è anche padre e figlio Pegoraro, dove la figlia Pegoraro, Susanna Beatriz, è appunto donna incinta che ha partorito in carcere e il figlio, la figlia poi ha una. Per quali altri casi simili valgono questi processi? Giancarlo Maniga, avvocato di parte civile. Questi processi tengono per il momento una giustizia che fino ad oggi è stata negata in Argentina. E allora questo può valere per l'Argentina, che fino ad oggi non ha visto celebrare questi processi grazie a una serie di norme che li avevano inibiti fin sul nascere, ma questo può valere per altri paesi dell'America Latina, purtroppo toccati da vicende di questo tipo, come il Cile, come tanti altri paesi dove governi dispotici e illiberali hanno creato situazioni assolutamente antidemocratiche come queste, e può valere per tanti altri paesi dove sono successe cose di questo genere, che dovrebbero essere portate a un giudizio obiettivo e sovranazionale, e quindi è un punto di partenza, sicuramente un punto di partenza e non d'arrivo per una giustizia che sulla base dei principi internazionali ormai diffusi e affermati dovrebbe intervenire ovunque ci siano queste lesioni macroscopiche di quelli che sono ormai comunemente definiti delitti contro l'umanità. Ma le istituzioni italiane ed europee come hanno seguito in questi anni l'evoluzione delle inchieste sui desaparecidos italiani in Argentina? Il racconto di Cristina Carpinelli. La via migliore per la riconciliazione di una società non la si trova esercitando uno spirito di vendetta, ma uno spirito di verità. Era il 14 marzo 2001. L'allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, stava per arrivare in Argentina. Sull'aereo si era portato un faldone di documenti, un dossier messo insieme dal suo staff. La storia dei desaparecidos italo-argentini, uccisi dopo torture atroci, era il centro di quei documenti, ma il nucleo di quel dossier era capire quanto, come e cosa l'Italia e l'Unione Europea stessero facendo o avessero fatto rispetto a inchieste aperte e che riguardavano cittadini europei ai tempi del golpe residenti in Argentina. Il materiale che Ciampi legge e studia in aereo diventerà poi tema di discussione e il Presidente della Repubblica riferirà così a Romano Prodi, allora Presidente della Commissione europea. L'impegno del Quirinale sarà alla fine quello di porre la questione nell'agenda del G8 di Genova, in vista del secondo vertice Europa-America Latina in programma l'anno successivo in Spagna. Dunque, di questo si parlerà, se ne parlerà a livello europeo e internazionale, e molte saranno le prese di posizione e i documenti firmati da singoli stati dell'Unione. A muovere tali azioni sono soprattutto certi sensi di colpa che arrivano dal passato. Quando parlano i sopravvissuti italo-argentini di quanto accadde in quegli anni, in molti si intesiscono sulla poltrona. Come si comportò, ad esempio, l'Italia con i nostri connazionali? Non era presente, dicono tutti senza esitazione. Ci fu solo l'eccezione di Enrico Calamai, il console italiano che da eroe si batté e che però venne lasciato solo, e poi, nel 77, appena un anno dopo l'inizio della dittatura, spedito in Nepal. Non solo, l'ambasciata italiana a Buenos Aires chiuse le porte letteralmente in quegli anni e nessuno ebbe accesso e protezione. Per questo oggi gli immigrati italo-argentini che hanno sulle spalle quell'orribile storia chiedono risposte, e non solo formali, all'Italia e anche all'Europa. La memoria dei desaparecidos italiani in Argentina non è stata cancellata. Rivive oggi nelle aule del Tribunale di Roma, davanti alla Corte d'Assise. Quei testimoni che sfilano davanti ai giudici rappresentano il ritorno della giustizia, anche se tardiva. Fanno cioè rivivere volti, sogni, speranze di persone inghiottite negli orrori dei sotterranei dell'ESMA e quelli di Garage Olimpo a Buenos Aires. È la memoria di Dante Gullo che in Argentina ha dedicato un'associazione a sua madre Angela. Hemos constituido en Argentina la Fundación Ángela María Ayeta de Gullo. E così in Argentina abbiamo creato una fondazione, Angela María Ayeta de Gullo. E para difundir y promover la defensa de los derechos humanos. Per promuovere e tutelare la difesa dei diritti umani. E para difundir, defender y esclarecer sobre lo que son los derechos económicos, sociales y culturales que todavía afectan a muchos de nuestros pueblos. E anche per diffondere anche i diritti economici, sociali e culturali di quali violazioni soffrono i nostri popoli. Y es mi gana que en este di vuelta la Fundación Ángela María Ayeta de Gullo también pueda constituirse en Italia. In questo andare, in questo ritornare, io vorrei che anche la Fondazione Angela Maria Ayeta si possa costituire anche in Italia. Y sumar y mancomunar esfuerzos para que esto que significó la lucha de mucha gente no caiga en saco roto. Perché gli sforzi di tante persone non vadano a perdere. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline di Biacchessi @radio24.it.